ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Ottava puntata. Impermeabile gocciolante ancora indosso, appena arrivata a casa, Nuccia mise sul fornello il mezzo litro di latte che era la sua cena. Si sedette al tavolo del cucinino e tirò fuori la scheda. Aveva fretta, erano le 10 e la ricevitoria sotto casa chiudeva presto. Dai rigori del sistemismo era tornata da un bel po' all'empirismo fiducioso, quindi il caso e il lume di naso. Spal Palermo, e chi ne sa niente, Pari, Pro Patria Genoa. In quell'esercizio c'era anche, per lei, e niente affatto inconsapevole, l'intento di accedere al mito popolare, il piacere di trovarsi allo sportello della ricevitoria con la domestica dei signori dell'appartamento di fronte, col commesso della drogheria dove aveva preso i biscotti e la confettura di Amarene Cirio. Persuadersi che le 4 cartelline consegnate in redazione a Paese Sera, col suo commento alla teoria degli oggetti sociali o strutture collettive di Jean-Paul Sartre, non le costavano l'isolamento dalla brava gente che lavorava e sognava a un passo dalla sua privata esperienza. Neanche a Walter raccontava che stava sgobbando al saggio introduttivo di una raccolta di scritti di Blanchot, Rousset, Barthes, dal grado zero, per commissione del suo editore che la considerava, e glielo aveva detto, fra i pochi in Italia capaci di accostarsi criticamente a quella irta tribù. A questo punto interveniva una piega del carattere meno encomiabile e si sa che l'orgoglio modestia ha una semeiotica sottile che tira a ingannare lo stesso sofferente con possibile danno suo e non soltanto suo. Tipico il caso, a buon fine almeno per lei, in cui si cacciò mentre era nell'ossola fra le giovani volontarie che avevano seguito gli uomini di Alfredo Di Dio il favoloso settembre del 44. Si era distinta per il fegato e la perfetta conoscenza della zona, sicché una volta le affidarono una spedizione oltre valle, a sud, a incetta di medicinali. Una ragazza, lei, 2 giovanotti, 3 muli. Dovevano marciare in costa alla montagna il più alto possibile. Tutto bene. E al ritorno, Nuccia trovò modo, lasciando al sicuro compagnia e mercanzia, di avvicinarsi alla rotabile e curiosare su una colonna di tedeschi, in sosta a balneare lungo il fiume. Molti facevano proprio il bagno, con carri e autoblindo. L'avanscoperta era stata sua iniziativa e poteva pagarla con una fucilata. Ebbe la debolezza, malintesa fierezza, di non volerne parlare neppure ai capi a cui l'informazione sarebbe stata utile. Si mise in testa che dovessero complimentarla, premiarla, cosa che sentiva immeritate e offensive al fervore del suo disinteresse. Se non che poi i tedeschi si rimisero in moto, preceduti da qualche notizia incerta e allarmata. Nuccia, pentendosi di avere taciuto, decise che doveva ripetere la prova e migliorarla. Mandava avanti, con poco aiuto, uno dei giornaletti che si stampavano lassù per testimonianza di una volontà di vita civile e ordinata, non per incuorare che non ce n'era bisogno. Piantò i compagni con un pretesto, partì da sola, infilate 2 scarpette bianche e una racchetta da tennis sotto il braccio, e dopo una marcia furiosa per i sentieri discese incontro alla colonna sull'aperta strada. Li trovò molto prima di Cuzzago, verso sera, che accendevano con comodo i fuochi. Il suo coraggio era della specie lucida, ironica, non comune davvero nelle donne. Si lasciò prendere e interrogare. Rispose parlando in francese di essere una straniera in villeggiatura. Naturalmente non fu creduta, né lei lo pretendeva. Aveva la sua idea. La ficcarono per la notte dentro un'auto ferma, con un uomo sul sedile davanti a sorvegliarla. Frattanto però niente le sfuggiva. Si era accorta che i carri restavano indietro e c'era invece un via vai di Alpenjäger su una mulattiera che facilmente portava a Monte Zeda o Monte Togano. Tentavano di aggirare l'isola ossolana da Levante, mandando truppa e piccola artiglieria sulle alture. Buona sapersi, adesso non restava che svignarsela. Se era fortunata abbastanza, perché il guardiano non dormiva, non le rispondeva, non accettava manco una sigaretta. Fu fortunata. Attratto dall'odore di carne giovane, un gattaccio girava intorno alla gabbia. L'Uberstleutnant che l'aveva interrogata la sera. Lei gli fece segno. Era notte, pioveva. Insistette a far segni e con un doppio puntiglio, questo Nuccia lo raccontava allegramente, dato che a 24 anni era senza bellezza, pur piccandosi di avere un visetto stuzzicante, finché la spuntò. Il soldato di guardia venne allontanato, il grosso uomo dalle gambe brevi e il respiro rumoroso, Lubberst, con un fare che Nuccia poi giudicò mezzo faunesco e mezzo paterno, se la portò via, gettatole un cappotto addosso, nel bosco che incombeva alla strada. Non ci fu una Giuditta ossolana, come si furono accucciati sul muschio fradicio, a discreta distanza dall'accampamento, Nuccia balzò. Era viscola magra a quell'età. La fuga non ebbe eccessive emozioni. Lei aveva calcolato giusto che l'uomo non avrebbe sparato o dato l'allarme. Non gli conveniva. Oggi, lontane e quasi incredibili quelle vecchie storie dell'ossola, c'era il totocalcio, la schedina, la speranzella del sabato sera. Queste erano cose della superficie e del resto vitali anche loro, a loro modo, e non compromettevano nulla, a parte le 200 lire. Di vincere, e vincere parecchio, Nuccia credeva di avere bisogno e con urgenza. Il conto lo aveva in testa semplicissimo. Le ci volevano 2 milioni. Per poter prendere con sé la Giulia, mantenimento, scuola, corredo, le spese per cui provvedevano intanto i nonni. Un altro milione per farsi quello straccetto di 600 e per la scappata in America. Fra i programmi immediati, il viaggio in America, 4 giorni andata e ritorno, figurava immancabilmente. Nuccia non aveva mai perso tempo in indagini della sua anima. Perché bisognava che andasse a vedere quella Nancy? Per cercare il modo di riconciliarli. Così si cavava i rimorsi, la pena, i dubbi. Ma io voglio il cuore caldo, si rispondeva, e non in pace. Me ne frego tanto, scusate, della coscienza tranquilla. Dunque ci andava per sentirle dire, a quella donna, io del suo Walter non so che farmene, se lo tenga. E magari ribatterle, lei è una sciocca, non sa che uomo è Walter, e in ogni caso non dubiti, me lo tengo sì. Ma più ancora, ma soprattutto per vederla coi suoi occhi. Si consumava dalla curiosità di vederla, poter dire finalmente che è tutta qui. Walter. Un colpo corto corto di campanello. Era Walter. E lei, incoerente, a nascondere in gran fretta la schedina del totocalcio. Che bellezza! Non mi hai mai fatto una sorpresa così. Dormi qui, ti fermi. Ferranini, difatti, la sera non andava a trovarla. Con tanti magistrati di sopra, di sotto, di fianco, pronto a fare la rivoluzione socialista, ma uomo d'ordine. Ti vengo a avvertire che domattina alle 6 parto, mi mandano fuori. Viene con me il compagno reparatore. Allora hai veduto Mauro? Ti ha chiamato? Ferranini non aveva visto nessuno. Aveva ricevuto le disposizioni per lettera, a casa, nient'altro. Non era di buon umore. Dove andate? Non lo so. E che cosa andate a fare? Non ti interessa. Eccolo, il cospiratore, fece Nuccia, ma senza avversene a male. Sta sicuro che non te lo scippo il segreto. Lui si mise a sedere sulla tavola per cavarsi le scarpe che erano piene d'acqua. Fuori diluviava. Resto via una giornata. Non so perché dovrei chiacchierare. Di su, perché dovrei chiacchierare? Si incattiviva. Buttò le due scarpe per terra. Avanti, perché dovrei chiacchierare? Vabbè, sei la mia amante. E allora, se mi fai chiacchierare, che gusto ci trovi? Sentiamo. Nuccia gli supponeva un temperamento ossessivo. Cioè, lo aveva visto incapace a un certo punto di sottrarsi a un pensiero infesto, di riportare quel dato pensiero alla sua reale misura. Inutile cercare di divagarlo. Bisognava innestare su quel dubbio o sospetto un pensiero differente, affine però, e che gli potesse parere altrettanto importante. Walter, da ieri a mezzogiorno sono comunista anch'io, te lo annuncio. Ho preso la tessera finalmente, ieri alla sezione Ludovisi. Ferranini smise di stropicciarsi i piedi, la fissò. E perché? Perché? Beh, intanto l'idea mi è venuta parlando con Amoruso l'altro giorno. Non voleva credere alla mia fede politica. Ah, andiamo bene. Ma non solo per questo, diamine. È logico che voglia allinearmi col mio uomo, avere un altro legame con te. Andiamo bene. Si entra nel partito non per allinearsi col suo dovere, ma per allinearsi col suo uomo. Tu lo sai che cos'è il partito per i sovietici? Come si entra nel partito in URSS? Annuccia le scappò la risposta sbagliata. Noi siamo in Italia, quindi facciamo i nostri comodi all'italiana. Ma insomma, mi hanno presa e credevo che ti facesse piacere. Oh, Walter! Non dico che tu non abbia i titoli. Hai un passato che molti ti possono invidiare. Nel 44, se ti pescavano, finivi in una qualsiasi villa a Trieste. Ma questa è un'altra faccenda. Mi pare la stessa faccenda. Lui camminava su e giù, concitato, in calzini. Sei andata a iscriverti come potevi andare dal profumiere a comprarti l'acqua di Colonia e scegli la Ludovisi che è nei quartieri alti. Nuccia esplorò un'altra via, un altro tono. Si sfilò la giacchetta del taglierino, sotto non c'erano che le spalline del sottabito e il reggiseno. Sarò una comunista da strapazzo, la politica mi importa poco. Mi importi tu? Perché non esiste la vita privata? Mauro fa sempre il vice segretario del PC, anche a letto con sua moglie. Lascia stare, guarda, che è meglio. Ma la vita privata piace anche a te. Chi è che dice nucciare, eh? Ho voglia di nucciare? Su, sgelati da bravo. Chi l'ha inventata questa parola? Ferranini non era forse un ossessivo, ma era sfornito di senso umoristico, questo di sicuro. E abituato a prendere le cose sempre sul serio, ne faceva merito alla sua origine. Noi emiliani siamo tutti così. Non c'entra, la colpa è tua che me l'hai fatta trovare. E accolse a muso duro la buona risata di lei. Domenica, il calendario del foglio d'ordini mensile prevedeva per il compagno onorevole Ferranini un comizio su l'URSS sotto la guida del compagno Khrushchev. Far perdere una mattina di riposo a 300 lavoratori servendogli al cinema Traiano di Civitavecchia un argomento così frusto non era una bella prospettiva. Però quest'altra faccenda che gli affibbiavano, andare a prendere per un orecchio il compagno Mazzola sospettato o accusato di deviazionismo, si fa presto a dire ma è roba seria da sprofondare un uomo, questo non gli piaceva affatto. Mazzola, Roberto Mazzola di Torino. Non lo conosceva. Ricordava di aver letto da qualche parte articoli con quella firma. Sapeva che era una figura importante della FIGC, sebbene non avesse cariche al centro, almeno in quel periodo, e che era stato partigiano in Piemonte o in Lombardia. Non sapeva di più. Non lo aveva veduto mai. «Che debbo dire?» fece reparatore mentre prendeva faticosamente posto alla sua destra. Anche io non lo conosco, ma forse per questo ci mandano a noi. Che ti hanno scritto? Che all'arrivo il compagno Bordino ci darà maggiori particolari. Pare che sia un disordinato, un confusionario. Prove decisive a sfavore non ce n'è, ma mi dicono c'è tutta un'atmosfera di indisciplina. Dice che non approva la destalinizzazione e al giorno d'oggi, tu sai. Sicché noi si arriva per l'atmosfera, si scende dall'atmosfera a rimediare un'atmosfera. No, non è cosa, Walter, non è cosa. E poi perché Mauro non ce ne ha parlato direttamente? Sorbole, ti fai sentire, non gridare così, Giobatta! Il grosso Giobatta Reparatore, un otaro, come lo chiamavano a Cerignola, rappresentava alla Camera e nel partito la vecchia scuola sindacalista e con quella la propria vocazione di frondeur. Si radeva due volte la settimana e non vedeva nessuno, non salutava nessuno. Voleva bene a Walter Ferranini, del quale aveva detto, in sua assenza, «è uno dei pochi che stanno qua senza aver mosso un passo per starci». Fra quei pochi c'era senza dubbio lui stesso. Nell'archivio dell'ufficio elettorale del partito si conservava, unico documento del genere, il certificato medico inviato da lui nel 48 per giustificare il suo rifiuto, in realtà era sordo parecchio, a entrare in lista. Ma Cagni, dietro suggerimento di Della Vecchia, gli aveva imposto di accettare la candidatura. Reparatore seguitava a parlare, sempre a gran voce. Per fortuna era vicina la partenza, i motori dell'aereo avevano preso a rombare. «Tu vedrai se non ci azzecco. Questo Mazzola deve essere un ragazzo. Al centro abbiamo la barba grigia, amiamo il quieto vivere. I giovani sono contenti quando si scende in piazza». Ferranini lo lasciava dire. «Vedrai, il Mazzola tira a sinistra. Ora, deviare a sinistra è coerenza, tutt'al più intransigenza. La deviazione di segno opposto, quella sarà una colpa. E questo di farci fare i missi dominici del Sant'Uffizio, a me non mi va. Tu che dici? Parla!» gli gridò nell'orecchio. «Che hai? Non rispondi?» Ferranini perse la pazienza. «E lasciami pace, devo mettermi a vociare anch'io. Ci danno disposizioni e noi le eseguiamo. Io almeno le eseguo». «In confidenza», riattaccò Reparatore rabbonendosi. «C'è uno solo di noi che non devia. Il sottoscritto? Ma il sottoscritto devia potenzialmente anche esso. Mi tengono da conto, ci tengono da conto, perché diceva Di Vittorio, siamo una delle due ruote del carro e senza la CGIL non si fa politica, questo ti capacita. E chi ti dice di no? Fammi parlare». Ma se domani l'interesse sindacale non va più d'accordo con la linea generale del partito, cosa tutt'altro che fantastica, perché non dobbiamo dimenticarci, il lavoro ha necessità immediate e non immediate, che non sono quelle dei politici. Allora che succede? Ci accusano di eresia, dico poco, sindacalistica. E cioè di fare quello che stiamo al mondo per fare. Il capo dei sindacalisti, dopo la rivoluzione d'ottobre, e era il grande Mikhail Efremov, detto Tomsky, già operaio alle Putilov, stava in continuo in conflitto con Lenin e Trotsky. È così o no? Sarà così. Una cosa buona delle sedute alla Camera era l'occasione di incontrare i compagni e amici, almeno questi, Reparatore, Amoroso, Boatta. I primi due ormai non aveva più modo di vederli fuori di lì. Reparatore, per le sue funzioni ispettive nella CGIL, sempre in giro per l'Italia. Amoroso, che da poco era stato nominato primario all'ospedale di Formia, a Roma ci restava il tempo indispensabile per partecipare alle sedute. Sprovvisto e non invidioso dell'esperienza politica professionale degli altri due e dello stesso Ferranini, Amoroso era un borghese colto, sebbene un po' alla maniera del vecchio umanismo italiano e retorico, che aveva curato e seguitava a non trascurare il proprio arredo di buon dilettante marxista. Aveva la curiosità perseverante di certi medici. Non si era dimenticato dell'episodio del tipografo trentenne morto d'improvviso nella sua officina, l'amico di Ferranini, ed era voluto andare a fondo, si era messo in contatto col collega che lo aveva visto subito dopo il decesso. La breve indagine confermava che il Gennaro era stato vittima di un aneurisma da fatica. Ne riparlò a Ferranini in un intervallo a Montecitorio. «Noi altri», osservò poi, «ci diamo da fare per cambiare il letto all'ammalato, ma bisognerebbe anche poterlo guarire. E qui non ci riusciamo, ho paura». Ferranini sapeva dove paravano quelle curiose parole. «E allora? Allora? Il problema è proprio questo. Il concetto di penosità del lavoro è rimasto un'astrazione dei trattati di economia e nessuno ne parla in senso concreto. I classici del socialismo descrivono la disumanizzazione conseguente al lavoro, facendo però di questa disumanizzazione un attributo negativo del lavoro organizzato e sfruttato. Ora, il primo uomo sulla terra non ha penato anche lui lavorando?» Diventò un loro argomento abituale quando si vedevano alla camera o nella trattoria a Via dei Coronari. Ogni tanto alle loro conversazioni contribuivano Reparatore e Boatta. Ma il discorso né si allargava né progrediva. Reparatore fece un'osservazione attinta al dialetto. «Noi in Bassa Italia non diciamo lavorare, diciamo faticare, perché lavorare è subire una violenza, un travaglio, nella misura in cui consiste nell'aprirci una strada nella materia bruta, cavandola, trasportandola, trasformandola. E dove non c'è sforzo, non c'è lavoro». Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.